piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La mia situazione, il mio tipo di lavoro mi porta a stare fuori 15-20 giorni, autogrill chiusi, per poterti mangiare un bel piatto caldo, anche se a costi esorbitanti. Non abbiamo il tempo materiale per poterci fermare in un centro commerciale a fare la fila per poterti comprare qualcosa per mangiare o da cucinarti, perché sono attrezzato anche per cucinarmi. Ma signori, i frigoriferi, questo che ho a disposizione, sono piccoli e non è che puoi fare scorte all'infinito. Questo è un autotrasportatore, un camionista, che parla dei suoi problemi, ne parla di fronte alle telecamere di Telemolise, ma riassume quello che più o meno c'era stato detto un mese fa, quando all'inizio della nostra reclusione collettiva noi analizzavamo alcune categorie di professionisti che ci sembrava in quel momento fossero sotto un più potente livello di stress proprio per la funzione, per la professione che svolgevano. Tra loro avevo sentito i camionisti e gli autotrasportatori. Mi interessava sapere e conoscere il punto di vista delle poche persone che in quel momento, ma penso che tuttora permanga questo stato, avevano possibilità di girare per il paese, di trascorrere tempo sulle nostre strade, di capire quello che succedeva da un osservatorio a spettro più ampio rispetto al nostro stare davanti sempre alla stessa finestra. Io, come tanti di voi, sto davanti allo stesso punto di vista, allo stesso orizzonte. Il mio orizzonte è quello della mia finestra, e vedo le finestre delle altre persone che probabilmente in questo momento anche loro stanno alla finestra e vedranno un signore probabilmente che davanti a un microfono con una cuffia, non sapranno cosa stia facendo di diverso da quello che fanno loro, che cercheranno di ammazzare ogni giorno l'angoscia di restare chiusi. E oggi voglio riprendere appunto il contatto con i nostri amici camionisti. Dico amici non per la solita ruffianeria di chi fa radio, che sono tutti amici, io penso avere pochissimi rari ma solidi amici, ma tra le persone che mi ascoltano evidentemente io ho la certezza che chi si muove su un camion ha maggiore possibilità di entrare in sintonia o di entrare in disaccordo con quello che dico, ma perlomeno di seguirmi, di avere quegli strumenti della sedimentazione del pensiero che fanno sì che uno, prima di esprimere un giudizio, di entrare in una polemica e di accendere un dibattito, abbia modo di ponderare e ascoltare chi parla. Quindi oggi pregherei a tutte le persone che sono per le strade d'Italia e non solo, che ascoltano la radio come l'ascoltavano anche 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, ma oggi cambia molto il loro punto di vista, e il loro punto di vista insieme al racconto dei loro problemi per noi è fondamentale per ricostruire, per allucinare un'idea generale della realtà concreta che ci circonda ma che noi non possiamo vedere. 800 24 0024. Intanto ringrazio le persone che mi permettono di andare in onda, che sono Andrea Roccabella a Milano e Anita Panizza in assistenza sempre a Milano. A Roma c'è Alessandro Chiappini e a casa sua c'è Fabrizio Intonti. Io e Fabrizio, che lavoriamo insieme da penso 10-12 anni, qualcosa del genere, per la prima volta stiamo provando anche questo contatto professionale a distanza. Il tempo di preparazione, di sedimentazione, di immaginazione della puntata è protratto per tutta la giornata, visto che entrambi siamo a casa, quindi paradossalmente lavoriamo di più ma mettiamo anche più cura, più attenzione, siamo a tempo pieno su quello che poi in condensato io dirò in questa mezz'oretta di trasmissione. Quindi Sam, prima telefonata. Sam, buongiorno. Ciao, tutto bene? Allora, Sam è il nostro ascoltatore, autotrasportatore di origine senegalese. Che in questo momento dove sei, Sam? Sono a Legnano oggi. Rispetto a quando siamo sentiti un mesetto fa circa, io leggo qualche articolo sui giornali, mi sembra che la situazione sia più o meno immutata, vedo i problemi sono, noi viaggiamo ma non ci possiamo fermare nemmeno a far pipì, che sono chiusi tutti gli autogrill, non sappiamo dove mangiare, siamo discriminati, e si aggiunge il problema poi, la gente non paga più, tutti tendono a rimandare, quindi c'è anche il problema che è più difficile essere pagati. Ecco, mi dici innanzitutto il tuo punto di vista e cosa è cambiato in questo mese? Niente, il mio punto di vista, Gianluca, è questo qua. Il lavoro è calato, però noi stiamo lavorando, nel senso io mi hanno attivato anche la cassa integrazione. Io lavoro due giorni sì, due no, due sì, due no. Oggi ho fatto solo zona Monza Brianza, l'ultimo viaggio che sto facendo qua a Legnano. E poi basta, però la situazione per mia parte è cambiata tanto, perché la gente come si trattava prima adesso si vede bene, diciamo. Però per il pagamento, noi il pagamento non abbiamo problemi, perché la mia ditta è grandissima, mia ditta una dei primi qua nella Lombardia, si chiama Dalla Valle Trasporti, qua a Busto Arsizio. Quindi diciamo, dal tuo punto di vista, Sam, sei ottimista, mi piace pensare a una persona che tutto sommato si adatta a una situazione di difficoltà, dici mi danno la cassa integrazione, lavoro, la mia ditta è robusta e quindi in questo momento non subisce il problema dei cattivi pagatori, e tutto, dal punto di vista invece umano, personale, è un po' cambiato lo scenario sulle strade italiane, vedi più traffico, più persone che girano, gli autogrill sono aperti? Per carità, no, io dove mettevo due ore ci metto un'ora neanche, cioè viaggiando così, guarda, da Dio vai a liscio proprio, cioè tutto alla grande, davvero, anche nelle ditte non trovi più nessuno con i camion, arrivi, sono da solo oggi, qua è una ditta grandissima, multinazionale, sono da solo, ho caricato, stavo per mangiare, mi ha chiamato la ragazza da Milano, adesso parlo con te, poi mangio, e poi dalla ditta mia e Busto sono 6 chilometri, vado in ditta, scarico la roba che va in Inghilterra, poi vado a casa, basta. Speriamo che si riprende bene Gianluca, perché così non va bene, perché l'Italia deve ripartire davvero. Senti, lungo la strada c'è sempre il problema che non trovate posti dove mangiare, dove fermarvi, dove fare bisogno. Mi ha chiesto l'altro giorno lì a Somalia, a Servizio Somalia, sono fermato, sì. Ho fatto la pausa a mangiare, dopo scendo giù e trovo dei ragazzi camionisti, faccio, devo prendere il caffè, mi fa no, tutto chiuso qua da quando è iniziato la cosa lì a casa del Bustarlengo, hanno chiuso tutte e due parti, quindi cosa fai, vai lì nelle macchinette, metti 50 centesimi, ti dà il caffè e poi delle macchinette che hanno messo lì quelle delle ditte. Però per farti anche il bagno, tutte quelle robe lì che avevano disposto, era tutto chiuso. Speriamo che lo riapriranno. Però settimana scorsa io ho passato, era chiuso. E andavo a zona Bologna e niente. Io sono andato via, il caffè non l'ho più preso finché è ritornato a casa. Perché è tutto chiuso. Anche nelle bar piccoline che vedi in giro, dove fermavamo, abbiamo tanti amiche. Vai là, c'è la beccheria e basta. Cioè, devi ripartire l'Italia. Però sai, vedo che il suo punto di vista, tutto sommato, non è un punto di vista di una persona totalmente abbandonata alla disperazione. Riesce a vedere anche il lato positivo. Quindi... No, per carità, io guarda, grazie a Dio, io ogni sera sono in questi momenti, torno a casa, trovo i miei bambini, non vanno a scuola, li aiuto per la scuola, didattica, cioè io mi trovo bene, grazie a Dio, e mia famiglia non vedevo mai tanto tempo, adesso avevo tempo anche di giocare con loro, cioè mi diverto tanto, prima non li vedevo quasi mai, adesso addirittura quando li chiamo metto il telefonino con il video e sono felice, cominciando a urlare papà. Tu pensa che adesso magari se gliel'avevi detto che avremmo chiamato alla radio, ti possono anche ascoltare. Davvero, grazie Sam. Davvero, volevo dirle mia moglie, però l'ho dimenticata, così lo ascoltavano. Vabbè, lo ascoltate in podcast, stasera quando torni a casa. Buona giornata, buon viaggio. Pasquale, buongiorno. Pasquale, dove si trova? Sì, buongiorno Nicoletti, Prato. A Prato. Ecco, rispetto diciamo alla visione tutto sommato di sopportazione ottimistica del tuo collega, te puoi aggiungere qualcosa di problematico rispetto a quello che ci eravamo già detti nell'altra puntata e quello che è stato il quadro che ha fatto adesso Sam? Ma diciamo, allora, dal punto di vista di chi fa viaggi lunghi, cioè, concordo con quello che dicevano l'altra volta i colleghi, perché insomma, quando fai viaggi lunghi è un po' un problema non trovare nessuno in autostrada, anche, cioè, anche per prendere un caffè 5 minuti ti riprendi, e invece è tutto chiuso. Dal mio punto di vista io faccio d'altronde, il locale. Scusami, gli esercizi lungo l'autostrada, i bar, i ristoranti, sono chiusi perché, a parte voi con i camion, dovrebbe circolare poca gente, ti risulta? C'è traffico? Sì, sì, sì. Chi vedi sulle strade, a parte voi? A parte i camionisti, chi fa i trasporti, chi porta i generi di prima necessità, chi vedete? Ma diciamo, come vetture se ne vede poche, pochissime, penso siano sempre spostamenti per lavoro, spero. Però diciamo che un 80% dei mezzi che circolano sono camion, solo camion. Diciamo, per la logistica necessaria per i vostri, diciamo, per la vostra giornata lavorativa, quindi come mangiate ad esempio? C'è un problema? Allora, io te lo ripeto, Nicoletti, io da questo punto di vista io sono fortunato, diciamo, fa un lavoro locale, io non fa più di 100 km al giorno di solito, a meno che non vo fuori, ma sempre qui per la Toscana. Quindi a te cambia poco, torni a casa, che ti sì, importa, ti porti il panino. Cambia solo che, a parte se non fosse per questo problema del coronavirus e della gente che muore, ci sentiamo un po' su un'isola felice, perché la strada è tutta per noi. Le file, come diceva il collega di prima, non si fanno più, solo ai supermercati, ma anche lì si sono dimezzate. E i tempi d'attesa sono dimezzati anche quelli. Diciamo, il lavoro che prima si svolgeva in 12 ore, ora in 7 ore lo facciamo. Io penso che chi ascolta dirà, vedi, fortunati, si approfittano di un male generale, però è chiaro che in un momento di disagio generale alcune categorie come quelli che trasportano lungo le strade, il fatto che le strade siano deserte, ci sia meno gente, per loro è indubbiamente un vantaggio. Io penso che il problema del caffè da prendere alla macchinetta piuttosto che al bar sia risibile rispetto al fatto che non devi fare le file, non devi fare attese. Sì, ma la stessa aria, qui nella zona industriale di Prato, si respira un'aria, sembra di essere a Viareggio, sul lungomare, perché sì. Lo smog quando tutto sarà finito, e prima o poi finirà, non sono fra quelli che dicono andrà tutto benissimo, comunque finirà, verrà un giorno che non se ne parlerà più di coronavirus, sì, può essere domani, può essere fra 1000 anni, però non se ne parlerà più. Certo che rimpiangeremo questa qualità di possibile vita che ci eravamo dimenticati fosse possibile. Il mio amico e regista Massimiliano Sbrolla l'altro giorno mi ha mandato un video, ha girato per Roma e ha fatto un documentario su Roma deserta. Beh, vedere Roma senza nemmeno un essere umano, in tutta la sua bellezza, senza automobili, certo, con un'area che si vede dal filmato quanto è fina. Beh, ragazzi, dice, probabilmente qualcosa dovremmo ripensare su quella che era la nostra vita prima. Non so quanto riusciremo poi a rivivere in una situazione come quella che viviamo tutti i giorni, ma io stesso ci mettevo un'ora per andare a lavorare, un'ora per tornare, era più il tempo che mettevo per andare al posto di lavoro rispetto a quello che ci mettevo per lavorare. Alla fine, per paradosso, per fare mezz'ora di radio c'era 2 ore di spostamento, capito? Oggi che finisco di fare la radio, mi alzo e mi metto l'uovo nel tegamino, non mi sembra possibile, e apro la finestra e viene il profumo della città, cosa che non ho mai sentito. C'ho gli uccellini che mi vengono a saltellare sul davanzale della finestra, cosa che io non ho mai visto in 12 anni che sto in questa casa qua. Sentiamo Carmelo, provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascolta. Sì, buongiorno, mi dica. No, lei mi dica dove sta, cosa fa, se corrisponde il quadro generale a quello che fanno i suoi colleghi. Sto viaggiando, sono in direzione Milano, e stamattina ero a caricare in provincia di Belluno, e questa è una lamentela, perché noi siamo boicottati da tutte le parti. Le ho chiesto se potevo andare in bagno, ma hanno risposto che non è possibile. Questo dove? Che posto era? A Belluno. Dove ha scaricato praticamente? Ma no, sono andato a caricare. Dove ha caricato? Sì, ho caricato in zona Belluno. Quindi l'hanno fatto caricare, ma non l'hanno fatta scaricare praticamente? No, io sono andato lì vuoto, ho caricato e adesso porto a destinazione. Io lavoro per Intermodale, terra, cioè autostrada e ferrovia. e ho chiesto se gentilmente se potevo andare in bagno, insomma alla mattina uno ha bisogno di andare in bagno, ma è stato risposto no, il responsabile non vuole che i camionisti vanno dentro i nostri bagni. E io faccio, va bene, io non sono mica un appestato, bisogna andare in bagno, ma ha detto di no. Vede come siamo trattati, vai in autogrill, devi star fuori, entrano due forze dell'ordine senza mascherine, senza guanti, e non gli dicono niente, loro possono entrare dove gli pare piace, noi camionisti no, chissà perché. E se ci dovessimo fermare noi, l'Italia va a rotoli. È quello che diciamo, guardi, abbiamo dato due punti di vista contrapposti, due suoi colleghi hanno detto che tutto sommato per loro è quasi meglio adesso di prima, lei dice che siete discriminati. Io posso anche capire che bisogna organizzarsi in maniera diversa, un'azienda che è carica e scarica, quindi vengono delle persone a svolgere una funzione indispensabile per quell'azienda, deve attrezzarsi, avere un bagno. Trovo giusto che persone strane non entrino in un luogo, ci sono altre persone senza le condizioni di sicurezza, nemmeno io farei entrare a casa mia una persona così, non posso, però dovrebbero avere almeno un bagno preposto destinato alle persone che entrano e escono, con naturalmente un sistema di sanificazione continua, in modo che stiano tutti tranquilli, che il suo collega che viene dopo di lei può andare tranquillamente nel suo bagno, perché è un bagno sanificato, fuori dal rischio comunque di contaminazione, che c'è, di contagio c'è. Sentiamo Marcello, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Lei. L'ascolto. Sì, mi sente? Sì, certo. Ok, io faccio consegne a domicilio, ho dei furgoni, non ho dei camion. Posso dire questo, un ragazzo partito per andare a consegnare in Emilia con un furgone non ha dove andare a dormire, alberghi chiusi, bar chiusi, deve prendere un caffè, distributori con contagocce dove trovarli, stasera dorme in un furgone, si è portato da mangiare da casa, ecco. Consegniamo a casa della gente. Sì, lo so, ieri, non avendo nulla da fare, mi sono comprato una nuova telecamerina che trovo che sia utile anche per il fatto che chi lavora da casa, mi è stata puntualmente consegnata dal corriere, è salito con l'ascensore, aveva mascherina e guanti, ha lasciato il foglio da firmare, mi ha lasciato il pacco e se n'è andato. Ho pensato, dico, ma questa persona che gira tutta Italia per fare il corriere, evidentemente avrà anche lui delle esigenze. Io penso che non ci sia un'idea di discriminazione di categoria, io penso che piuttosto nella necessità di comunque normare tutta l'emergenza, ancora nessuno ha pensato di creare dei presidi per le persone che viaggiano, presidi da costruire, presidi prefabbricati, presidi volanti o dei posti che debbano rimanere aperti e sanificati per le persone che viaggiano, e forse anche senso parlarne. Ci fermiamo un istante, sono tantissime le telefonate, vedo che gli autotrasportatori rispondono sempre alla nostra chiamata. Tra un Melog. Oggi vi porto al lavoro con me. Siamo sul camion. Ecco come si presenta la strada. Non c'è in giro nessuno. Oggi, questa mattina che è sabato, c'è un viaggio urgente. Andiamo a caricare del TNT, tessuto non tessuto, da portare in un'azienda che fanno le mascherine. Allora, siamo arrivati. Il magazziniere non è ancora arrivato perché è presto, sono le 8:10. Allora, il navigatore mi dice che sono arrivato. Allora, il camion è aperto. Adesso scarichiamo. Questa è un'azienda riconvertita, facevano tovaglioli e adesso fanno lo Swiffer. Allora, abbiamo finito, sono stati gentilissimi, mi hanno fatto andare in bagno a fare la pipì e ho bevuto anche il caffè offerto da loro. Ok, andiamo a casa che abbiamo finito. Questo era un camionista contento, preso da notiziario.net, che racconta la sua giornata. Nei piccoli particolari che mette assieme possiamo dedurre alcuni elementi costanti. Se oggi abbiamo delle mascherine, anche perché una persona con il camion poi porta il tessuto non tessuto all'azienda riconvertita che fa le mascherine. Se oggi andando al supermercato, pur facendo la fila, pur avendo un disagio rispetto alle nostre abitudini classiche, è perché qualcuno la mattina ha portato dai mercati generali, diciamo dai fornitori ai mercati generali, quella frutta, quella verdura, quei generi alimentari, e poi li ha portati al supermercato. Qualunque cosa noi in questo momento abbiamo come residua forma di conforto per il soddisfare i nostri bisogni essenziali, c'è comunque un trasportatore che l'ha portata. Mi arriva dal nostro gruppo Melog ha parlato un senso generale, vogliono che esprima ai camionisti la loro ammirazione e il loro affetto, dice, sono in questo momento l'asse portante del paese. Si è cambiata molto la considerazione generale. Io da tanti anni faccio trasmissioni sui camionisti perché è una categoria che mi affascina. Probabilmente nei miei riconditi desideri giovanili sarebbe stato uno dei mestieri che mi sarebbe piaciuto fare, perché pensavo che si viaggia, si sta seduti in un posto alto, c'è tanto tempo per stare con i propri pensieri, e poi tutto sommato si ha a contatto con poca gente, che per me era sempre qualcosa che mi dava conforto, anche se poi alla fine il mio mestiere paradossalmente è stato quello di avere a che fare sempre comunque con persone. Guardate, però ho a che farne a distanza. Carla, moglie di camionista, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, qual è il punto di vista di chi è l'angelo del focolare? Butto questo termine, ma in questo momento penso che tutti maschi e femmine sono tutti angeli del focolare perché stanno dentro casa, e quindi per forza. Sì, diciamo, certo. La moglie di un camionista in questo momento prova un disagio diverso o ha un sollievo ulteriore magari? Ma diciamo che io in casa ascolto i commenti, le lamentele, le arrabbiature dei familiari, no? E ultimamente diciamo abbiamo sorriso un po' per un aspetto, no? Che avviene diciamo nei magazzini, che quando arrivavi le aziende, le committenti, per risparmiare sui loro costi, riversavano sui camionisti alcune attività, nel senso che scendi le pedane, mettimele di qua, spostamele di là, girati così, fai cos'ha. Ora invece, con il fatto che bisogna diciamo limitare l'ingresso, fanno tutto loro, quindi su questo, ma questo aspetto... è quello che ascolta da suo marito quando torna a casa, dice guarda che bello, oggi non hanno più, mi hanno chiesto a straforo di scaricare la roba. Ma certo, perché ci si sentiva un po' come insomma al loro servizio, e non ti pagano per questo servizio, insomma. Ho perfettamente chiaro, ecco. Sul fammi un favore, dai, tirami giù la pedana. Oggi c'è uno che tira, c'è un apposito pedanista pagato per fare quello, ecco, o uno di quelli che devono farlo. C'era un margine, diciamo, di lavoro che veniva fatto in questa zona limacciosa che c'è in tutte le professioni, in cui la cosa viene chiesta come favore, come piacere, poi diventa una prassi, poi diventa una parte aggiuntiva del lavoro. In un momento in cui non esiste più un metro razionale, concreto e soprattutto basato su parametri pre-Covid-19, di valutazione dei tempi di lavoro, di modalità del lavoro, il camionista non si vede più chiedere quelle operazioni manuali che erano impropriamente a lui affidate quando lo affacci qualcun altro. Col fatto di non tenere il distanziamento e hanno paura, lo tengono anche salvo da questo tipo di lavoro. Piero, provincia di Chieti. Piero. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ascolto. Benissimo. No, io sono diciamo fuori dal coro, perché secondo me non è vero che è tutto chiuso, perché in autostrada le aree di servizio sono aperte. Certo, non vorranno da mangiare, ma però il cappuccino lo puoi prendere, le paste le puoi prendere, te le devi prendere, le porti fuori, le metti in un sacchettino, come giustamente si deve fare in questo momento. Non è che ci possiamo, ecco, però mi spieghi una cosa. O diciamo, prego. L'osservatorio cambia a seconda della latitudine del paese. Perché qualcuno si lamenta su queste cose e tu mi dici che in realtà non c'è motivo di lamentarsi? Come mi devo comportare io che sto in casa? È così dappertutto o c'è gente che si piange addosso? O in certi punti si è più fortunati perché i posti sono aperti? Cerca di farmi capire, voglio un punto di vista obiettivo se possibile. Allora guardi Gianluca Nicoletti, io l'ascolto sempre, lo so. Allora guardi, in autostrada le aree di servizio sono aperte, nelle superstrade no, però nelle autostrade o nei raccordi autostradali, tipo l'Ascoli Mare, tipo queste qua, le aree di servizio sono aperte. Quindi dipende quindi, dal tipo di tragitto che fa il suo collega, se il suo collega... No, è autostrada, autostrada. Quando una strada è classificata autostrada, le aree servizio sono aperte. Magari non faranno i pranzi, però il bar è funzionante, il caffè si può prendere, il cappuccino si può prendere. Quindi diciamo, quindi di fronte al problema generale che sta attraversando il paese, in alcuni punti drammatico, non mi sembra che non si possa, se non c'è il bar col caffè che si fa la macchinetta espresso immediato, sia fra i problemi che più devono metterci in croce, uno si porta il termos col caffè, ci sono delle caffettiere elettriche, se lo fa e poi alla fine chi se ne frega del caffè, appunto, il paese deve andare, diciamo la verità. Io posso dire una cosa, signor Nicoletti, guardi, io ero abituato a prendere il cappuccino a pasta sempre al bar, adesso me lo faccio al mattino prima di uscire. Basta, io qualche volta sto fuori anche una settimana, qualche volta sto fuori due giorni, tre giorni. Caro amico, sapessi a quante cose eravamo abituati che oggi non guardi, ce l'abbiamo no, più? Le voglio dire una cosa, basta che uno rientra una volta a settimana, si fa una bella doccia. Adesso d'inverno, se stiamo un po', se stiamo senza farci la doccia tutte le sere, non succede mica niente. Fai una pulizia intima e vai avanti, ti cucini qualcosa nel camion, ti prepari un'insalatura e vai avanti. E sta, quelli che fanno le diete non mangiano mai, adesso non è che devono mangiare per forza tutti i giorni al ristorante, no? Cioè, questo è un periodo così. Lei è molto saggio, perché poi infatti io sono stato molto cauto nel dare spazio alle lamentele, perché mi rendo conto che poi il primo dei camionisti che ha telefonato, che non a caso viene da un paese dell'Africa, quindi è ben abituato a ben altre privazioni, a ben altri disagi, ma tutto sommato sono felice, vedo più la mia famiglia, le strade sono libere, sì, non posso prendere il caffè al bar, ma lo prendo alla macchinetta, ma chi se ne importa. Ecco, è difficile oggi accettare che venga considerato un sacrificio enorme non potersi prendere un caffè lungo la strada, ecco, è un po' difficile. Mi aspettavo problemi di altro tipo, legati magari, ecco, alla difficoltà poi di essere pagati, ma se nessuno chiama e mi porta questo problema, evidentemente una categoria in questo momento fa egregiamente il suo servizio e ha un disagio limitato rispetto ad altre. Giuseppe, provincia della Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. L'ascolto. Sì, ecco, volevo solo intervenire per confermare, diciamo, quanto è stato detto precedentemente dai miei colleghi. Per quanto riguarda gli autogrill in autostrada, risultano aperti, perlomeno per quelli che ho visto io. Danno sicuramente il caffè e qualche brioche, diciamo, però i pranzi, diciamo, i ristoranti sono totalmente chiusi. Ecco, il problema è che quando vai nella committenza per il carico e scarico, il 90% dicono che se hai bisogno del bagno è interdetto, in quanto non te lo lasciano usare. Ecco. E poi la maggior parte delle aziende che prima del Covid-19 avevano magari qualche macchinetta per poter prendere il caffè o prendere un pacchetto di cracker, adesso o le hanno proprio spente oppure sono spostati in ambienti in cui non è possibile accedere. Ecco, diciamo che allora mi sembra aver capito che se c'è un problema non è un problema di attenzione pubblica, sono le aziende che sanno che comunque viene tutti i giorni un cristiano con un camion a caricare o scaricare, devono cominciare a considerare che questo possa avere dei bisogni, quindi devono organizzarsi, avere un minimo di posto in cui questa persona possa avere il lecito ristoro, che è anche molte volte avere un lavandino con un rubinetto venga acqua corrente e un gabinetto dove poter fare i propri bisogni. Questo è più un problema di organizzazione di chi riceve o affida il carico a un camionista. Basterebbe anche mettere magari, che ne so, un gabinetto chimico di quelli che usano i cantieri come estrema emergenza, mettere una possibilità di avere un posto riservato con dell'acqua corrente, con del sapone. Basterebbe intanto fare un piccolo sforzo, e se ha avuto un senso parlarne questa mattina è proprio in questa direzione. Sentiamo Roberto da Chieti, tantissimi, devo dire che tocchiamo sempre una categoria che comunque ci ascolta e partecipa, sì, con grande attenzione. Roberto, sì, da Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, posso condividere al 100% il mio collega di prima, è anche paesano di Chieti. Guardi, funziona, diciamo, in autogrill ti puoi fermare tranquillamente, puoi bere il caffè, il cappuccino, ci sono anche i panini, quelli già confezionati, loro non possono fare da mangiare. L'unico problema nostro adesso, io parlo mio personale, è la cassa integrazione. Nel mio settore io lavoro con rifiuti, era primario, praticamente non ci siamo fermati quasi mai, invece adesso è sceso anche a noi e la scorsa settimana ho fatto 2 settimane di cassa integrazione. E adesso è un problema anche con, già sta mettendo le mani avanti per lo stipendio, ti dico la verità. questo comincia a essere, sarà un problema che toccherà non soltanto la sua categoria, ma purtroppo toccherà tante categorie, anche delle più disparate. Io però vorrei concentrarmi, se poter dare un apporto concreto, su quello che mi sembra il problema principale specifico di questa categoria. È che le aziende che hanno comunque un traffico di carico e scarico per loro esigenze comunque di merce tipiche della loro attività commerciale, debbano cominciarsi a organizzare per avere un posto in cui le persone che trasportano abbiano possibilità di usare un bagno, usare un minimo di comfort. Questo potrebbe essere un'idea che magari da regolamentare. Chiunque abbia traffico di camion, di trasportatori, deve comunque avere un posto sanificato e isolato dal resto degli operatori che lavorano in quell'azienda, in cui le persone possano fermarsi e fare quello che è necessario ogni essere umano ogni tot tempo. Ci fermiamo ancora un istante. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Melog 800240024, stiamo passando in rassegna la categoria dei camionisti autotrasportatori, categoria che rappresenta uno zoccolo duro di ascolto della radio, quindi a noi particolarmente cara, ma in questo momento categoria nevralgica per la sopravvivenza del nostro paese. Hanno in linea di massima lamentato alcuni la stessa problematica che avevamo registrato un mese fa quando avevamo dedicato una trasmissione a loro, che mi sembra però circoscrivibile, a parte le circostanze legate ai compensi, alla cassa integrazione, che riguardano praticamente tutte le categorie professionali in questo momento, sul fatto che quando arrivano nel luogo in cui devono consegnare o caricare la merce, sarebbe buona norma che ci fosse un posto destinato a, diciamo, i bisogni fisiologici delle persone che trasportano. Trovo comprensibile che non vogliono far entrare estranei nei bagni che usano le loro maestranze, le persone dipendenti della ditta, per i motivi di distanziamento sociale che fanno parte comunque di una norma governativa, però anche questi hanno i loro bisogni e bisognerebbe magari pensare quei bagni che si mettono nei concerti, nelle grandi manifestazioni pubbliche, dei bagni chimici, o riservare una parte dei loro capannoni proprio per i bisogni di queste persone. Sembra una cosa banale, ma mi sembra fondamentale, mi sembra almeno il problema più specifico in questo momento di questa categoria, a cui dobbiamo una grande gratitudine comunque. Andrea da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Allora, io volevo intanto dare ragione ai colleghi precedentemente riguardo al discorso degli autogrill. Sì, sono aperti, c'è la possibilità di fermarsi tranquillamente, di fare quello che si faceva prima mantenendo il metro di distanza, i guanti, la mascherina. Però il problema è questo, chi si fida per il caffè, prendere in mano quella tazzina? Il problema è fondamentalmente quello, sono aperti ma sono vuoti. Vedi, sì e no, la macchina della polizia o qualche autista io che penso fa le ore che useranno dei bicchierini di carta, che mi sembra la cosa più logica. Io non vado in un autogrill da mesi, Ma io immagino e spero che non usino le tazzine, che useranno dei bicchieri di carta, penso, usa e getta. Dove sono stato io c'erano ancora le tazzine, quindi non so se in altri usano le comunque le tazzine vengono poi lavate sì, con un getto di vapore, chiaro, sì. Però certo, aumenta la difficoltà in un momento in cui poi non ci sono nemmeno norme così precise sulle possibilità di trasmissione, di contagio. Però questo non voglio divagare. A parte gli autogrill sono aperti, quindi mi sembra che il disagio sia ridotto al minimo. Poi vorrei tirare in ballo anche un'altra cosa, che più che altro è un problema, non si è mai parlato, anche di routine. Insomma, noi autisti spesso abbiamo sempre gli stessi tragitti da fare, spesso abbiamo sempre le stesse consegne, eravamo abituati alla mattina a fermarsi in quel posto, c'era quella la barista, la cameriera, a fare due pare, capito? È più che altro un discorso anche di routine che ci viene a mancare, ed è una cosa molto importante. Siamo privati anche di questo, che nel nostro piccolo era molto importante anche le due parole, vedere la persona che vedevi tutte le mattine era una cosa però, molto importante. Ho capito, però si renda conto quante routine sono state messe in stato di precarietà per la maggior parte degli esseri umani. Altro che vedere la barista la mattina e farci due chiacchiere, c'è gente che non vede da mesi la persona con cui magari è legata da anni, perché solo abitano in due case diverse o in due città diverse. Altro che ci sono genitori che non vedono i figli, figli che non vedono i genitori. Che mi sembra ben poca cosa non poter vedere la barista. Noi stavamo parlando dei camionisti, io le dico che insomma anche questo faceva parte della nostra vita. Insomma, io ho la fortuna di lavorare nel settore dell'ortofrutta, addirittura io lavorando lo stesso tutti i giorni, quando ci hanno obbligati al domicilio, si ricorderà che c'è stata quella corsa ai rifornimenti, i primi periodi, e noi abbiamo lavorato molto di più, quindi io non ho assolutamente, volevo rifarmi al primo intervento dell'autista straniero, vi fa due giorni sì, due no, io lavoro sempre, insomma io in mezzo a tanta sfortuna posso ritenermi molto fortunato, perché per me non è cambiato assolutamente nulla, a parte il fatto di avere una figlia di 8 anni, la moglie incinta a casa, recluse, che stanno sbroccando, poverette, se è chiusa in casa tutto il giorno, capisce, lo sa meglio di me. Lo sbrocco familiare sarà un argomento che toccheremo nelle prossime puntate, perché è ben diffuso. Solo per puntualizzare, il suo primo collega è un cittadino italiano, è di origine africana, ma è un cittadino italiano a tutti gli effetti, penso a una famiglia con figli italiani, quindi è un nostro connazionale, anche se magari ha la pelle scura rispetto alla nostra, che in questo momento è pallidiccia come non lo è mai stata negli ultimi 50 anni, almeno per quanto riguarda me. Andrea da Rovigo, Flavio, provincia da Milano. Nicoletti, buongiorno, eccomi. Salve, senta, visto che ormai su quello che è le aree di servizio o quant'altro si è detto di tutto di più, io volevo rispondere per quello che posso al suo quesito, i servizi a disposizione nelle aziende. Allora, io faccio un parallelismo diretto col paese che conosco meglio oltre l'Italia, che è la Francia, che effettuo regolarmente viaggi verso quel paese. Secondo me il nostro limite è sempre legato a un problema culturale, perché comunque in qualsiasi azienda francese c'è a disposizione degli autisti esterni che arrivano, una sala ristoro, dei bagni adeguati, delle docce e quant'altro, così in tempi normali, ma si sono adeguati anche in questo periodo dove ahimè tutto è cambiato per tutti. Addirittura un esempio, un'azienda che ha posto all'esterno, in possibilità del parcheggio dei camion, un prefabbricato, un container attrezzato a bagni pubblici con le macchinette del caffè e quant'altro, situazione di emergenza, necessità di svirto, si dice. Non credo che sia un impegno poi particolarmente oneroso, fa parte comunque dell'ottimizzazione del servizio. È quello che dico io, dottor Nicoletti, è proprio un problema, secondo il mio punto di vista, culturale, no, hai ragione, un problema assolutamente culturale, perché comunque in Italia, lasciamo stare adesso che c'è la psicosi coronavirus, anzi un problema pratico che genera anche secondo me un eccesso di timore in alcuni casi, ma anche in tempi non sospetti, usciamo un attimo dai tempi del coronavirus, come usa dire adesso, i servizi ai trasportatori sono molto ridotti e in tal caso ma adesso è una cosa, guardi, lo dico come mia intuizione, non è basata su una verifica, quindi prendeta col beneficio dell'inventario, ma io ho visto spesso in epoca pre-coronavirus depositi della protezione civile in cui in momenti di urgenza di terremoto chiaramente tutte le forze sono impiegate in quella direzione, ma ci sono tonnellate di container e di sistemi e presidi d'emergenza usati nelle zone terremotate, che oggi non sempre ancora servono tutti, che andrebbero benissimo. Ci sono dei container bagno fatti apposta che venivano messi proprio nelle situazioni di emergenza, ma che vengono usati quando ci sono grandi manifestazioni di massa, concerti, aggregazioni e via dicendo. Basterebbe chiederlo, probabilmente nemmeno sarebbe un costo eccessivo poterlo mettere, basta fare in modo che quando lei arriva sa che comunque avrà un bagno, avrà una doccia, avrà un lavandino, avrà una sedia e la possibilità di scaldarsi un panino magari piuttosto che mangiarselo freddo. Vediamo se può avere un senso in questa trasmissione aver sollecitato un'iniziativa generale, qualcuno nell'inventiva che in questo momento ci rende tutti particolarmente attivi a trovare soluzioni, qualcuno trovi il modulo da dare alle aziende per l'accoglienza del camionista. Io penso che in Italia saranno 2000 aziende che fanno casette prefabbricate, container di legno, contenitori, container, bagni chimici, attrezzature per concerti, che dicono: guarda, il modulo è questo, costa tanto, secondo noi è un bel investimento, perché da te verranno più volentieri e sarà più efficiente il tuo lavoro e tu farai un passo avanti nella civilizzazione, che è anche molto importante. Claudio, provincia di Roma. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Io confermo quanto detto già dal mio collega che mi ha preceduto e volevo sottolineare che non è solo un problema di ora, ma di sempre, ma dovuto anche a una carenza di controlli, perché le leggi sulla tenuta di questi servizi esistono, solo che mancano i controlli e nessuno viene a controllare che questi servizi effettivamente esistano. Ma faccio un esempio. Una grossa azienda di scarico, trasporto merci o quant'altro, una logistica sostanzialmente, per aprire deve già fornire il servizio agli autisti. Le ASL locali devono andare a controllare che questi servizi siano efficienti e funzionano, una cosa che in parecchi luoghi d'Italia non avviene. Cioè non si può aprire una logistica o non si può aprire un'azienda di carico e scarico merci senza che ci siano i servizi per gli autisti. Già questa è legge, cioè non si devono inventare niente di nuovo. Lei ha aggiunto il tassello che mi serviva. In questo momento lei capisce che non avevo possibilità di fare verifica, certo, immediata. Quindi c'è già la normativa che dice: se da te viene un camion per scaricare, se no non si può aprire. Se no non si può proprio aprire quel tipo di Quindi diciamo, chi dice non avete un bagno a vostra disposizione va contro la legge, contravviene una norma, potrebbe essere denunciato. Ecco, questo è magari l'incentivo a muoversi. Lei dice già c'è una normativa di norma di igiene e sicurezza. Chi riceve carico e scarico deve avere un posto adeguato per le persone che portano la merce. Spero che questo argomento sia preso in mano da chi si occupa degli interessi di questa categoria, e noi abbiamo fatto il nostro piccolo e modesto servizio questa mattina nel segnalarlo. Alla prossima.